in primo piano. Buongiorno, buon martedì 2 giugno da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani in una versione festiva. E quindi eccomi qua, perché la programmazione di oggi appunto è festiva, quindi non ci sentiremo neanche per effetto mondo, ci prendiamo un po' una pausa dalle notizie internazionali, tanto su molti quotidiani oggi, e del resto è stata l'apertura del GR, avete sentito, ci sono le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Comunque domani riprende anche effetto mondo, quindi poi ci risentiremo anche in quello spazio. Cominciamo dal Sole 24 Ore, che ha un titolo molto legato agli ultimi dati sulla cassa integrazione, di cui sapete si è molto discusso, perché c'è un meccanismo complesso di erogazione che coinvolge anche le regioni, ci sono stati dei problemi, e da qui il titolo del Sole 24 Ore: emergenza per la cassa integrazione, il governo disponibile a ridurre i vincoli e aumentare la durata. Il centro studi di Confindustria ha lanciato un allarme sulla produzione industriale. Noi siamo un paese manifatturiero, quindi la produzione industriale, l'industria è il motore economico di questo paese, è calata del 33,8%, senza sostegni, rischio emergenza sociale. Poi c'è un dato sul recupero dell'evasione fiscale, o meglio il lavoro che ha fatto l'Agenzia delle Entrate per recuperare parte delle tasse evase. Nel 2019 si è arrivati a quasi 20 miliardi, ma per l'ennesima volta si invoca un cambio di strategia per certo migliorare il recupero, ma soprattutto per diminuire l'evasione fiscale alla sua origine. Poi la fotonotizia è dedicata al piano che verrà presto presentato dall'ENI per una svolta green. Questo naturalmente è un processo che è iniziato molto prima della pandemia, ma che adesso deve riprendere. Tra l'altro ricordiamo che semmai il Recovery Next Generation Fund, chiamiamolo come vogliamo, dell'Unione Europea vedrà la luce, sarà anche vincolato a una svolta green di tutti i paesi, perché la svolta verso un'economia più sostenibile è una delle condizioni a cui questo fondo sarà legato. È una delle riforme, viene considerata una riforma strutturale. In realtà molte aziende individualmente questa svolta l'hanno già iniziata. ENI, ci raccontano Cheo Condina e Celestina Dominelli a pagina 19, due direzioni generali in arrivo per accelerare la svolta green. Prima pagina del Corriere della Sera, come molti altri quotidiani, del resto avete sentito tutto anche nel GR, si lega alle parole di ieri di Mattarella, che ha anticipato di un giorno il discorso per la festa del 2 giugno, la festa nazionale del 2 giugno, anche perché oggi il presidente sarà impegnato, come avete sentito, a Codogno, che è quel comune qui dell'Lodigiano in Lombardia, dove c'è stato il paziente 1, ricorderete, in marzo. Dividersi è inaccettabile, questo è il virgolettato scelto per l'apertura del Corriere della Sera, che però in prima pagina ha una foto scattata a Coral Gables in Florida con i poliziotti inginocchiati in segno di rispetto per la morte di George Floyd, ma anche in un certo senso a ricordare come è morto George Floyd, l'afroamericano ucciso ormai più di una settimana fa a Minneapolis, proprio da un poliziotto che ha premuto sulla sua gola per oltre 9 minuti, causandone la morte. Ci fermiamo però un attimo per una primo aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno, buon 2 giugno da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vi segnalo il debutto di Carlo Verdelli, che dal gruppo RCS arrivava, perché comunque era stato anche direttore della Gazzetta dello Sport, poi come sapete è diventato direttore di Repubblica, da lì se n'è andato, o meglio è stato mandato via dalla nuova proprietà quando appunto Repubblica ha cambiato proprietà dal gruppo della famiglia De Benedetti, è passato quello della famiglia Agnelli Elkan, e ora Verdelli torna appunto a collaborare con il Corriere della Sera. il titolo di questo primo articolo, La strada giusta per il dopo. Ma vi leggo il caffè di Massimo Gramellini, perché sicuramente avete sentito anche nel GR le parole di Zangrillo, che è intervenuto ieri a Uno Nessuno e 100 Milan, perché il giorno prima era intervenuto a mezz'ora con Luce Annunziata facendo questa dichiarazione che il virus è clinicamente morto, intendendo con questo che dal punto di vista clinico non causa più danni, non che il virus sia morto in sé, e da qui un nuovo capitolo della saga le opinioni dei virologi, epidemiologi, infettivologi, pneumologi, anestesisti. Il titolo del caffè di Gramellini è Non possiamo farne scienza. Ora, piccolissima premessa, io credo tantissimo nella scienza, è una delle mie passioni. Quello che di tutta questa fase 1, fase 2, spero non fase 3, mi ha molto colpito è questa sovraesposizione degli scienziati, perché nessuna delle scienze che abbiamo nominato, epidemiologia, infettivologia, pneumologia, sono scienze esatte, quindi possono esserci anche interpretazioni dei dati diversi, e si sono tutti espressi, quando invece forse per esempio una soluzione sarebbe stato dare la parola solo per esempio al presidente delle varie associazioni a cui fanno capo questi diversi scienziati. Così non è stato, e scrive Massimo Gramellini: non me ne vogliano gli esimi virologi ed epidemiologi per il paragone, ma anche Einstein, intervistato tutti i giorni, avrebbe fatto la figura del cretino. Lo diceva Michel Platini, che detestava le interviste. Persino un convento di monaci cistercensi, illuminato dai fari della TV, si trasformerebbe in un pollaio. Figuriamoci un consesso di scienziati dall'ego non esattamente rattrapito. Il sistema mediatico si alimenta di esperti e famosi e funziona se le loro dichiarazioni riescono a suscitare la replica di qualche altro esperto o famoso. Si tratta di un lavoro usurante che reclama un ricambio continuo di facce. Politici, sportivi, giornalisti, soubrette di ambo i sessi si avvicendano a ritmo frenetico. Servivano rinforzi. Così prima sono arrivati gli chef e ora i medici, che da 3 mesi vengono intervistati a ogni ora di ogni giorno, anche da me, sciagurato, per sapere come se la passa il virus. E il dottor X afferma che non esiste più, la professoressa Y che è un po' stanco ma sempre sulla breccia, e il luminare Z che i sintomi sono più lievi, come accade all'inizio e alla fine di ogni pandemia, ma poi non sa dirci se siamo alla fine o all'inizio della seconda ondata. Agli scienziati si chiedono certezze e loro rispondono: non ne abbiamo. Allora perché continuano a rispondere? La verità è che il meccanismo li ha inghiottiti, altrimenti se la caverebbero con un no comment, come faceva il vecchio Cuccia, ma lui evidentemente aveva scoperto il vaccino. E aggiungo che per questi pareri e per queste ospitate nelle varie trasmissioni televisive, molti di questi scienziati hanno anche un cachet, il che, se ci pensate, è veramente folle, perché viene loro chiesto un parere, dovrebbero anche solo per senso civico darlo gratuitamente, anche perché hanno sempre altre fonti di reddito, ma così succede. Con il Corriere della Sera vi segnalo, con anche un invito all'ottimismo, a guardare a un futuro diverso da quello che ci stiamo lasciando alle spalle, l'inserto Buone Notizie, che è dedicato all'estate 2020, voglia di turismo sostenibile, che può voler dire tante cose, dal fatto di andare in aree dove si sa che si ha particolare cura per l'ambiente, a scegliere un campo di volontariato, insomma ci sono tante possibilità, tra l'altro adatte a ogni età. La Repubblica: Mattarella chiede unità ma la destra va in piazza. E vi segnalo da Repubblica un'intervista a Giorgia Meloni, il titolo scelto è Non giustifico i gilet arancioni, quelli che abbiamo visto in piazza domenica a Milano, ma la rabbia è reale, la rabbia nel paese. Due gli editoriali, uno di Ezio Mauro, che di Repubblica è stato direttore, prima di Verdelli e prima di Mario Calabresi era Ezio Mauro, ora è editorialista, Lo Spazio Repubblicano. Anche Repubblica pubblica la foto scattata a Coral Gables in Florida dei poliziotti inginocchiati, ma c'è spazio anche, ma poi troviamo tutte le pagine 12 e 13 anche per naturalmente la cronaca più stretta, con le parole pronunciate da Donald Trump. Non le ha pronunciate davanti alle telecamere, è un'indiscrezione pubblicata da alcuni giornali. Avrebbe detto ai governatori, tra l'altro il governatore del Minnesota è democratico: siete degli idioti se non arrestate i manifestanti. La Stampa apre sulle parole di Mattarella, e anche la foto è del Presidente della Repubblica ieri nel cortile del Quirinale, dove insieme c'era solo lui e naturalmente alcune persone del suo entourage e una piccola orchestra. Il titolo: non disperdete i sacrifici degli italiani, l'appello di Mattarella ai partiti per la festa del 2 giugno, spirito costituente, unità morale per il bene della nazione. Anche in questo caso il tema delle rivolte dagli Stati Uniti, la Stampa dedica molto spazio a queste vicende da pagina 6 a pagina 9, e la foto, anche se più piccola, è sempre quella dei poliziotti inginocchiati. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta perché, appunto, sappiamo c'è la ripartenza del campionato che in tanti aspettavano, e quindi la prima pagina della Gazzetta dello Sport, l'alfabeto della ripartenza, dalla A a Zaniolo, da Chiesa a Tonali, in vetrina, viaggio nel campionato che riprenderà. Il Messaggero, anche in questo caso virgolettato, dividersi ora è inaccettabile. Sergio Mattarella, come probabilmente avete sentito, non ha fatto nomi, però è sembrato evidente l'appello sia ai partiti, ma ha detto a tutte le persone che hanno ruoli di responsabilità. Quindi alcuni l'hanno interpretato anche come a un appello, appunto, per esempio agli scienziati, visto che sappiamo il governo in questa fase si affida molto a questo comitato scientifico, di cui fanno parte anche molti medici e ricercatori. La foto in questo caso grande è scattata da una angolazione diversa, ma è sempre quella dei poliziotti in ginocchio. E poi anche questo fatto che effettivamente ha molto colpito, cioè che, come sapete, quando lo abbiamo visto anche in tanti film d'azione dove si ipotizzavano attacchi alla Casa Bianca, c'è un bunker sotto la Casa Bianca in cui il presidente e la sua famiglia vengono portati in caso di estremo pericolo. È successo, anche se per circa un'ora, però Trump, appunto, è stato portato nel bunker per ragioni di sicurezza. Dalla prima pagina del Messaggero vi segnalo un tema che poi troviamo anche su altri giornali, e in vista della maturità c'è questo problema: fuga dei prof, maturità a rischio. Per i timori di contagio, una commissione su 10 sarebbe senza presidente. Avvenire, nuovo inizio per l'Italia. La foto più grande che su tutti gli altri quotidiani è stata scattata in America, è diversa da quella della scelta dagli altri giornali. In questo caso ci sono sì poliziotti inginocchiati, davanti a loro si vedono i manifestanti. Rivolta a USA, Trump incendia, questa è un po' l'interpretazione dell'Avvenire, la Chiesa stop al razzismo. Il titolo Nuovo inizio per l'Italia anche qui è dedicato alle parole del presidente Mattarella, ma vi segnalo un interessante editoriale di Ferdinando Camon: ora ci vuole un Kennedy, l'America che ferisce, quella da amare. Il riferimento naturalmente a John Fitzgerald Kennedy, che guidò il paese in un momento molto delicato, ricorderete i contrasti con Cuba e poi naturalmente l'inizio della guerra in Vietnam, però riuscì anche, la sua fu una vittoria di misura contro l'allora candidato repubblicano, però riuscì poi a ispirare il suo paese. Ora manca, secondo Ferdinando Camon, una figura simile, perché come antagonista di Trump naturalmente c'è il candidato alle presidenziali di novembre, Joe Biden, dei democratici, ma non sembra all'altezza del ruolo. C'è proprio questo tema dell'assenza di leadership di cui parla Camon, e vi leggo le ultime righe di questo editoriale. Alla violenza lo Stato deve rispondere con la giustizia, e un presidente come i Kennedy così farebbe. I Kennedy, perché ricorderete che anche il fratello di John Fitzgerald Kennedy, che fu ucciso, Robert Kennedy, che quando fu ucciso lui era stato ministro della giustizia nel governo del fratello, nell'amministrazione del fratello, e poi sì, quando fu ucciso si stava candidando come candidato alle presidenziali. Quindi i Kennedy. Ma al posto di un Kennedy c'è un presidente il quale risponde che i dimostranti violenti sentiranno nei polpacci il morso di cani feroci. L'America nella sua storia, nella sua cultura, nel suo diritto, la soluzione di questo caso, ma non è quella dei cani che mordono, è un'altra, che non soltanto porterebbe questo caso a una soluzione, ma gli avrebbe impedito di nascere. È l'America dei Kennedy. Aspettiamo un nuovo Kennedy, non è detto che l'attesa sia lunga. Insomma, come on, è ottimista su questo. Io un po' meno, perché la situazione negli Stati Uniti e il Covid l'ha evidenziata, delle disuguaglianze tra gruppi etnici è ancora enorme. Ricordo sempre che ci sono circa 40 milioni di afroamericani negli Stati Uniti, sono circa il 15% della popolazione, ma per esempio sono la maggior parte della popolazione carceraria, sono stati colpiti in maniera quasi doppia dal Covid perché partivano da una situazione disagiata dal punto di vista economico e sociale, che negli Stati Uniti vuol dire in primis avere un accesso a cure sanitarie di minori, e quindi da qui anche la maggiore incidenza della pandemia. Prima della pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, la prima pagina del Fatto Quotidiano: San Moscia, la festa di Salvini e Meloni, il 2 giugno delle destre in marcia e retromarcia, e poi anche un riferimento al ruolo crescente, anche mediatico se volete, che sta avendo il governatore del Veneto Luca Zaia. Zaia ruba la scena a Matteo nella protesta anti-Conte, i leader invitano la gente a non venire. Questa è un po' l'interpretazione del Fatto Quotidiano. Ci sentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali, e quella di Il Giornale è ha questo titolo: i prof non sono eroi. Il tema, quello sollevato anche sul Messaggero che vi dicevo, per paura o pigrizia rischiano di far saltare gli esami di maturità, non hanno imparato la lezione degli infermieri. Questo è sostanzialmente il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, che inizia con una generalizzazione e poi fa dei distinguo. Però intanto c'è un altro titolo per il suo editoriale, che è: i furbetti in cattedra meritano la bocciatura. Scrive questo: la scuola italiana e il suo corpo docente e dirigente sta scrivendo una delle pagine più squallide della sua storia, la scuola italiana. A pochi giorni dall'inizio degli esami di maturità, migliaia di professori stanno cercando di evitare la rottura di dover tornare al lavoro dopo 4 mesi di semivacanza. Sono in talmente tanti a marcare visita che in alcuni istituti l'esame è in forse. E poi scrive ancora: invece purtroppo ci ritroviamo con una categoria di insegnanti, trattino, non tutti ma pur sempre troppi. Appunto, sarebbe credo giusto sottolineare che forse questo problema esiste, c'è, è stato segnalato, ma quanti insegnanti invece fanno bene il loro lavoro? Io ho un ricordo, penso come me e tante altre persone, fantastico dell'impegno dei singoli insegnanti. E conclude Sallusti: tutto ciò è colpa di anni di devastazione della scuola da parte dei sindacati, di una gestione burocratica e ideologica dell'educazione. Ci sono eccezioni, certo, ma non a sufficienza per ribaltare l'andazzo, tanto che hanno permesso che in Italia, e questo purtroppo è verissimo, la scuola chiudesse prima dei bar e riaprisse dopo calcio e calcetto, e questo dà l'idea del loro valore e non del loro eroismo. Poi naturalmente la questione della giustizia, dolorosissima possiamo definirla, perché riguarda, sapete, Luca Paramara, ex presidente della ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ma anche la possibile riforma del CSM di cui si sta parlando. E adesso Paramara, interrogato, comincia a parlare, e così scrive il Giornale: così il pentito Paramara fa tremare toghe e procure. Il tema lo sapete, perché è emerso da queste chat chat tra magistrati pubblicate dalla Verità. Soprattutto il tema era quello delle nomine, delle nomine decise dall'ANM per influenzare poi le scelte ultime che spettavano al CSM dei vari procuratori nelle varie procure. La Verità, quindi, che ha iniziato ha aperto questo vaso di Pandora E con, o meglio, il vaso già c'era ed era già stato aperto alcune volte, ma qui è stato proprio spalancato con queste chat che hanno messo nero su bianco le parole di Palamara e di altri magistrati. Quindi La Verità titola: toghe del CSM preoccupate, così si indebolisce Renzi, il verminaio dei magistrati politicizzati. Poi anche sul tema, dicevamo, del CSM e della possibilità di sceglierlo, c'è poco tempo, ascoltate la Consulta, il Consiglio va sciolto, Consulta sta per Corte Costituzionale. E poi anche un aggiornamento sulla questione del virus, dell'evoluzione del virus e delle dichiarazioni di Zangrillo, che è primario anestesiologo al San Raffaele di Milano: il virus ha perso forza, i virologi sono in lutto. Libero: alla faccia del corona, l'industria italiana è la più forte d'Europa. Qui si tenta appunto di guardare, di vedere il bicchiere mezzo pieno, con l'indice che dà il polso dell'economia, l'indice di maggio, che affida alla nostra manifattura 45 punti. Giuliano Zulin fa il confronto con la Germania, che si ferma a 36, Spagna a 38, Francia e Inghilterra a 40. Il tema è anche però, torniamo ai dati del Sole 24 Ore, che poi bisogna vedere com'è la struttura sottostante e come sono le condizioni strutturali delle varie economie, dove naturalmente il confronto tra Italia e Germania mette in evidenza molte criticità. Sulla questione dei virologi, Pietro Senaldi, vice direttore di Libero: i virologi stiano zitti, sono più letali del Covid. E poi una notizia in prima pagina, la mette solo Libero, io l'ho visto ieri su Facebook, ma non sono riuscita a guardare il video, se volete un piccolo episodio, però talmente di crudeltà gratuita che mi ha veramente colpita. Ripeto, non sono riuscita a vedere il video, e l'episodio è questo: di due ragazzini che a Torino hanno preso a calci un riccio, hanno giocato a calcio con questo riccio fino a ucciderlo, e non contenti si sono filmati e hanno messo questo filmato su internet. Azzurra Barbuto racconta poi questa vicenda, ma ripeto, purtroppo circolava già da ieri su Facebook, almeno io l'ho vista lì. Giocano a calcio col riccio, piccoli criminali crescono. Vi ricordo una cosa che è ormai un fatto, questo sì, scientifico: se si vanno a cercare i profili di criminali particolarmente efferati, addirittura dei serial killer, si scopre che tutti, da piccoli o da, insomma, under 18, si sono caratterizzati per episodi di crudeltà gratuita contro gli animali. Il manifesto, Blacks Out, naturalmente un gioco di parole, Blacks scritto in minuscolo, Out in maiuscolo, e il tema naturalmente è quello delle proteste negli Stati Uniti. Sesto giorno consecutivo della rivolta contro le discriminazioni razziali negli Stati Uniti. Trump accusa gli antifascisti, decretato il coprifuoco anche a New York. A Minneapolis la polizia marcia con i manifestanti. Il manifesto dedica a questi disordini le prime sei pagine del quotidiano, e con tanti approfondimenti, e in particolarmente interessante un'intervista a Noam Chomsky di Valentina Nicolì, che dice: l'America è fondata sulla schiavitù, i neri repressi da 400 anni. La prosperità della nazione si è basata sul più violento sfruttamento razziale del mondo. E torniamo al Sole 24 Ore. Vi dicevo, richiamato in prima pagina il tema dell'evasione fiscale: 19,9 miliardi recuperati nel 2019, ma naturalmente c'è il tema anche del fatto che durante il lockdown anche la pubblica amministrazione, come tantissime attività, ha rallentato, e da qui anche l'allarme lanciato dall'Agenzia delle Entrate, perché la lotta al sommerso deve ora fare i conti con la carenza di liquidità e il rischio di chiusura di molte attività. Poi naturalmente anche il Sole 24 Ore si occupa, sono due pagine di primo piano, la 4 e la 5, della quella che viene definita la grande partita, cioè il fatto che Leonardo Del Vecchio, fondatore e ora presidente di Luxottica e ora presidente di Essilor Luxottica, che è il colosso dell'ottica e dell'occhialeria nato dalla fusione con la francese Essilor, vuole salire dal 10 al 20% in Mediobanca. Marigia Mangano, a pagina 4, la crociata di Del Vecchio per la stabilità del salotto, perché così viene definito il salotto, anzi salotto buono dell'economia italiana, Mediobanca, la banca d'affari. Antonella Olivieri approfondisce a pagina 5 Mediobanca Delfin, che è la finanziaria di Del Vecchio, investitore finanziario. Del Vecchio conferma l'invio della richiesta di salire al 20%, una richiesta che è stata inviata all'Unione Europea. I titoli volano in borsa, Piazzetta Cuccia ieri ha guadagnato l'8% e Assicurazioni Generali il 3,24%. Sulla app Immuni, che dovrebbe partire domani, vi segnalo l'approfondimento di Luca De Biase, che è stato per anni responsabile delle pagine di Nova e ora è editorialista di queste pagine. Il tracciamento dei contatti, partenza in Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia, ok del garante la privacy, restano le incognite, false allarmi e poi quella famosa soglia del 60%, che è la soglia minima delle persone che devono scaricarla, perché poi i dati raccolti e sui quali si basano poi appunto anche questi avvisi che la App Immuni dovrebbe lanciare siano affidabili. Sul tema della manifattura, della difficoltà della manifattura, Filomena Greco ci racconta, pagina 11, copertina della sezione Economia e Imprese, l'auto non riparte, meno 50% a maggio, sono in campo tre misure per il salvataggio: estendere l'ecobonus, adeguare l'IVA per le auto aziendali e una detrazione totale. La sezione Salute, come sempre ogni martedì sul Sole 24 Ore, questo è un tema importantissimo ed è quello, se ne è parlato anche qualche giorno fa, del blocco che c'è stato della sanità ordinaria, ma in alcuni casi anche straordinaria, per via del fatto che gli ospedali sono stati, le strutture sanitarie in generale, comprese sappiamo anche le residenze per anziani, sono state monopolizzate dall'emergenza Covid. E da qui Marzio Bartoloni ci ricorda un arretrato di 600.000 interventi, così riparte la chirurgia nelle corsie. Sale operatorie aperte 7 giorni su 7, tamponi obbligatori prima dei ricoveri, pronte le linee guida chieste dal Ministero, ma per recuperare occorre un anno e serve nuovo personale. E poi vi segnalo, perché è richiamato sulla prima pagina della sezione Salute, che oggi è la giornata mondiale per i disturbi alimentari. Sono 3,2 milioni di italiani che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, ma oggi appunto c'è una giornata mondiale. Tra le tante patologie, in questo caso è un disturbo del comportamento, ma ci sono anche tantissimi altri disturbi del comportamento che hanno subito lo stesso destino in questi mesi di lockdown. Appunto ci sono tutte le persone che avevano magari in programma visite o avevano in corso un percorso di cura interrotto dall'emergenza Covid. E invece Francesca Cerati, a pagina 31 del Sole, che è la seconda pagina del dorso della sezione Salute, ha fatto un confronto su quello che è successo in Europa nell'affrontare la pandemia. Europa, confronto sulla pandemia. I fattori di successo sono flessibilità e adattabilità delle risorse disponibili, insieme alla capacità di pianificare le risposte in base alla crescita della domanda. E poi, prima di una seconda pausa con gli aggiornamenti sulla viabilità, vi segnalo oggi con il Sole 24 Ore il rapporto sviluppo sostenibile. Chiara Bussi nella copertina fa un po' il punto su questo e il tema è sostenibilità infrenata ma è già pronta alla ripartenza, perché anche tutti i piani di sostenibilità per via del Covid hanno dovuto comunque essere comunque messi in pausa, ma effetto Covid, auto private meno mezzi elettrici, plastica monouso, in Italia arretrano 6 obiettivi ONU su 17, gli obiettivi posti dall'ONU per arrivare a una svolta sostenibile, gli investimenti però non si fermano e noi invece ci fermiamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon 2 giugno, grazie a tutti gli ascoltatori, a chi sta mandando messaggi al 349-238-6666, WhatsApp o SMS. E questo messaggio lo leggo perché per me la questione del rispetto per gli animali è proprio a 50 anni e passa, è proprio parte di me, non è una delle poche certezze che ho. E quindi all'ascoltatore che dice: mi invita a non mettermi a piangere per un riccio, perché le lucertole, gli uccellini e le formiche li abbiamo uccisi tutti da piccoli, non siamo tutti criminali, animalisti, integralisti, non pianga. Io non ho mai ucciso né una lucertola, né un uccellino, né una formica, nemmeno le forbicine. E quindi questa sono io, quindi faccio parte di questi tutti che hanno ucciso gli animali da piccoli. Certo che non sono tutti criminali quelli che hanno ucciso una formica, io non ho parlato di questo, ho detto che la crudeltà gratuita sugli animali, specie per esempio tra l'altro sugli animali più piccoli, quindi crudeltà sui piccoli gatti, sui piccoli cani, in questo caso su un riccio, è un tratto che i criminologi individuano nei profili di chi poi da grande si macchia di crimini più gravi. Questo detto, questo ripeto, e all'ascoltatore che mi dice di non piangere, cercherò di non piangere per il riccio, in realtà l'ho già fatto ieri. Ma torniamo alle pagine interne e andiamo sul Corriere della Sera, che ha una intervista a Romano Prodi, ex premier, ex presidente della Commissione Europea, che dice: lo Stato diventi azionista per difendere le imprese, e poi sul governo, secondo Prodi, non può cadere. E poi, visto che abbiamo parlato di scuole e del fatto che in Italia a scuola non si tornerà, e sottolineo sempre che c'è anche questa anomalia italiana del fatto che da noi l'anno scolastico finisce molto prima che in altri paesi si può tornare a scuola, è successo in Francia e è successo anche nel Regno Unito per alcune classi e succederà a metà mese ancora in altri paesi, perché l'anno scolastico è cadenzato in un modo diverso, ci sono meno ferie in estate, massimo 2 mesi, anche meno, però poi ce ne sono durante l'anno e quindi c'è ampio margine di manovra per appunto riaprire le scuole. Detto questo, in Italia proprio non riaprono. E quindi da Londra il corrispondente Luigi Ippolito racconta: Londra riparte dalle scuole, i bambini tornano in aula. E poi c'è questa fantastica foto, molti di voi l'avranno già vista ieri, la regina Elisabetta, che ha 94 anni e ieri ha fatto un giro, ha una passione per l'equitazione e ha fatto un giro con il suo pony nel parco del castello di Windsor. È sicuramente una delle donne più forti anche fisicamente che si conoscano, comunque tra l'altro con il ruolo che ha. Elisabetta passeggia sul pony. A proposito invece di Covid, proprio dell'emergenza sanitaria, Monica Ricci Sargentini ci ricorda che un malato su 6 in questo momento è in America Latina, che l'emergenza è ancora altissima in Brasile ma anche in Nicaragua, dove appunto stanno salendo contagi e vittime. Dal Corriere della Sera vi segnalo anche di Massimo Gaggi la notizia della figlia del sindaco di New York, Bill de Blasio, Chiara, che è stata fermata dalla polizia. Un piccolo particolare che non ho visto abbastanza segnalato è che Bill de Blasio è sposato con un'attivista e poetessa afroamericana, Shirlan McRae, e quindi se possibile probabilmente la figlia di de Blasio ha un motivo in più per partecipare alle manifestazioni, naturalmente speriamo pacifiche, perché appunto si sente toccata direttamente da questa tragedia dell'uccisione da parte di un poliziotto bianco di un afroamericano una settimana fa a Minneapolis. Vi dicevo, l'intervista a Giorgia Meloni la trovate a pagina 4 della Repubblica. Nulla a che fare con i gilet lancioni, ma il disagio nel paese è reale. Poi un'intervista al ministro dell'istruzione Azzolina, ieri ce n'era una anche sul Sole 24 Ore, che dice: basta teledidattica a settembre, voglio tutti in classe. E vi dicevo, le invece anche su, sempre su Repubblica, molto spazio a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, pagina 12 e 13, con approfondimenti sia di Federico Rampini, che si trova a Flint nel Michigan, ma anche altri articoli, come uno di Robert Armstrong tradotto dal New York Times, con cui Repubblica ha un accordo di cosiddetta syndication. Le ferite di Lake Street, la via dei migranti, anima di Minneapolis, per cercare insomma di capire un po' quello che sta succedendo. Oh, il 4 di giugno sarebbe anche l'anniversario della strage di Tiananmen. Chi appunto era, chi non è giovanissimo, lo ricorda sicuramente. Io avevo 20 anni e ricordo quelle immagini anche dello studente, lo ricorderete, fermo di fronte al carro armato in piazza Tiananmen. E adesso questa, guarda caso, quest'anno non verrà ricordato con cerimonie solenni quell'avvenimento, e addirittura dalla Cina arrivano accuse alla gestione che la polizia americana sta facendo delle rivolte. Gli avversari di Trump, tra l'altro, a loro volta speculano su queste rivolte e dicono, uno degli slogan lanciati, il razzismo è la vostra Hong Kong. Intanto la Cina, perché sottostante a tutto questo primo piano, possiamo dire mediatico, ma non è solo mediatico, è anche sostanziale, cioè da una parte la pandemia di Covid, dall'altra adesso gli scontri negli Stati Uniti, ma anche quelli a Hong Kong, che si sono, tra l'altro, sono ancora in corso. Giovedì scorso è passata questa legge di una stretta sui diritti di manifestare proprio a Hong Kong. E quindi Filippo Santelli ci racconta che dietro a tutto questo, intanto la Cina, nella sottostante guerra commerciale con gli Stati Uniti, l'arma della soia, Pechino ferma gli acquisti dagli Stati Uniti. La Cina studia una ritorsione alle sanzioni annunciate da Washington, sarebbe un colpo all'economia americana alla vigilia delle elezioni. E siccome però oggi riapre il Colosseo, Corrado Augias sulla Repubblica racconta: nel Colosseo senza più code che torna ombelico del mondo. Vi dicevo, l'approfondimento con più dati, l'opinione di Sallusti l'avete vista sulla prima pagina del giornale. Invece il Messaggero: maturità senza presidente, una commissione su 10. E qui appunto il tema, più che degli insegnanti nulla facenti che vogliono fare 4 mesi di vacanza, come dice Sallusti, più quello dei dirigenti. Esame di Stato nel caos, 1200 dirigenti hanno dato forfè soprattutto per la paura di contagio. La soluzione potrebbe essere incarichi plurimi oppure incarichi ai docenti con meno di 10 anni di servizio. Mani sul volante, direbbe Alessandro, perché c'è anche un aggiornamento sul Messaggero sulla vicenda Alitalia. Sapete che, a proposito di scuola, l'Italia in questo decreto ha avuto il doppio circa degli stanziamenti, degli aiuti, di quelli decisi per la scuola. Questa è una cifra che dovrebbe comunque fare effetto. Sappiamo che l'intero settore aereo è in crisi, Lufthansa avrà 9 miliardi di aiuti di Stato dallo Stato tedesco, lo Stato tornerà a essere azionista della compagnia aerea. La situazione di Alitalia naturalmente è completamente diversa, perché era in crisi molto prima della pandemia. E ora il Messaggero ci aggiorna: Alitalia ancora in stallo, mancano il decreto e un piano industriale, liquidità quasi agli sgoccioli, i sindacati, non si sa nulla della Newco e di chi la guiderà. In 3 mesi Alitalia ha perso 45 milioni di passeggeri, ma questo è, ripeto, un problema comune a tutte le compagnie aeree, che hanno la maggior parte degli aerei a terra. Dall'Avvenire torniamo su Hong Kong. A Hong Kong il distanziamento politico, la polizia teme il virus di Tiananmen, e appunto il ricordo di quel 4 giugno del 1989 che la Cina vuole proprio mettere sotto silenzio per quest'anno. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano, dove ha fatto il suo esordio qualche giorno fa Gad Lerner, era editorialista di Repubblica, ora è andato al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il suo articolo di oggi: nazionalismo e razzismo non sono solo di Trump, e riporta, fa un collegamento anche con la situazione in Italia. Sempre dal fatto, ancora un approfondimento su Hong Kong, doveroso credo appunto parlare di quello che sta succedendo a Hong Kong, ma anche di questa di questo anniversario del 4 giugno 1989, con la scusa del Covid-19 Tiananmen cade nell'oblio. E poi un articolo, abbiamo parlato, abbiamo insomma letto anche le perplessità espresse da Gramellini, ma che sono quelle di tanti, su come si sono comportati gli scienziati, soprattutto quelli che sono andati in televisione in questi mesi. Barbara Spinelli, anche lei da poco collaboratrice fissa del Fatto Quotidiano, a pagina 17 del Fatto Quotidiano, la preminenza dello scienziato, e Barbara Spinelli cerca di comunque vedere i vantaggi del fatto che gli scienziati si sono un po' presi la scena mediatica in questi mesi. Paiono rovinare la festa della normalità ritrovata, usurpano la politica con i loro moniti, ma consentono ai cittadini di conoscere meglio i pericoli e di proteggersi dal virus. E vi segnalo anche, lo fa il Fatto Quotidiano, uno dei pochi giornali, che ci appunto noi giustamente guardiamo la situazione italiana, però pensate che persino in Germania il direttore dell'Istituto di Virologia di un ospedale di Berlino, che è considerato un po' l'architetto della strategia tedesca vincente contro il virus, Christian Drosten, in realtà è stato in questo momento messo sotto accusa per alcuni suoi atteggiamenti. Presa da questi discorsi legati alla scienza, non ho più guardato l'orologio. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, il nostro tempo è finito. Ancora un buon 2 giugno da Giulia Crivelli.